E siamo rientrati in diretta, avendo ascoltato questo vero e proprio drone inquietante, ma anche estremamente sperimentale, e ovviamente 451 Frammenti Sonori vi saluta per l'inizio di questa seconda parte della puntata di stasera. Ricordiamo, per coloro che si fossero messi in ascolto solo ora sulle frequenze di Radio Città del Capo, chissà, dopo il concerto di Vasco a Bologna, vabbè che sto facendo troppa pubblicità a questo personaggio, dunque lasciamo perdere, ma non credo francamente che qualcuno si metta ad ascoltare una trasmissione così inquietante, scura e appunto dronica e metallica. La puntata di stasera è dedicata al Metal Drone, infatti si intitola Schegge di Metal Drone, puntata che si è dipanata nella prima parte dalle 11.35 circa a mezzanotte e mezza, prima del GR di Radio Popolare Network, attraverso un percorso tra le formazioni, alcuni autori, alcuni progetti che si inseriscono dentro quella categoria così definita come Metal Drone, questa sorta di drone, dunque bordone, percorso, flusso metallico, sperimentale, che appunto per gran parte di questi progetti di stasera esce dall'universo metal, da quello black metal al heavy metal anche canonico, al doom metal, a tutti i generi connessi appunto all'universo metallico. Molti progetti si sono addentrati dentro la sperimentazione dronica attraversando rumorismi, vera e propria avanguardia connessa anche ad aspetti ambient, dark, minimalisti, rumoristi, chi più ne ha più ne metta, anche elementi post rock che abbiamo ascoltato ad esempio attraverso gli Horseback. Prima parte che appunto ha attraversato tre progetti: Menas Ruin, gli Horseback e il grande Sanò insieme a Boris dall'album Altar. E abbiamo appena orora ascoltato in apertura della seconda parte questo percorso sonoro estremamente sperimentale, ipnotico, minimalista, ma anche molto inquietante, per alcuni aspetti anche estremamente industriale. E si tratta di un album veramente molto ben riuscito, uscito nel 2009 da parte di Dave Phillips. L'album è They Live e Si Vivono, è chiaro il tributo al film horror politico estremamente polemico e politico di Carpenter degli anni 80, e Si Vivono, abbastanza anche famoso. Dave Phillips dà un vero e proprio tributo a questo splendido film di Carpenter, e il disco uscito appunto nel 2009, They Live, uscito per la RRR Records, un lavoro splendido di un autore che ha una storia importante. È stato infatti uno dei fondatori del gruppo hardcore Fear of God nel 1987, poi ha fatto parte anche di altri progetti importanti su questa scena come Ketsu Nohana, Lione, i Rabid Dogs, per poi già dagli anni 90 portare avanti dei vari progetti solisti, anche collaborando con autori della scena sperimentale, attraversando veramente moltissimi campi musicali, sperimentando su vari fronti, cercando anche di portare avanti la sua base di partenza, con, appunto, contaminandola e cercando di ricercare delle vere e proprie influenze, dall'aspetto minimalista a quello più prettamente industriale, più vicino, fino ad arrivare al noise e attraversare appunto anche gli elementi più connessi al metal drone. Il brano è appunto un brano dove l'aspetto dronico è connesso soprattutto a questi archi che vengono trattati e poi miscelati insieme a chitarre e a una sorta di base ritmica ipnotiche, a suoni quasi concretisti che si mischiano in questo flusso oscuro ed inquietante, per poi realizzare appunto un lavoro estremamente dark, ma anche con molte connotazioni industriali. Oltretutto, oltre ad aver fatto parte, essendo anche un fondatore di Faircode, ha anche collaborato con un'altra formazione storica nell'ambito comunque noise metal come Napalm Death, e appunto ha portato avanti per molti anni progetti solistici, ma in questi ultimi anni ha cercato molto di entrare dentro quell'universo metal drone che appunto stasera stiamo trattando. Un autore che comunque merita attenzione per i suoi lavori estremamente sperimentali ed è, possiamo dire, in parte esce dall'universo metal, perché già dai Faircode ma anche successivamente con gli altri progetti ha sperimentato molto e dunque è più dentro la categoria degli autori e dei musicisti d'avanguardia prettamente legati alla ricerca e alla sperimentazione che collocabile dentro un universo con le varie etichette, le varie diramazioni connesse al metal. E da Dave Phillips andiamo a trovare un altro gruppo che non esce esplicitamente dall'ambito metal per entrare dentro il metal drone, ma è un vero e proprio progetto che si muove fin dagli albori dentro la sperimentazione più aperta e più spinta. Si tratta di Locrian, un progetto fondato nel 2005 a Chicago da André Forosi, che lavora soprattutto su chitarre elettriche o chitarre acustiche a 12 corde, basso, lavora molto sull'ambito elettronico, tape loops, sintetizzatori, effetti, e Terence Amum, anche lui ai sintetizzatori, alle voci e ai tape loops. Un duo, appunto, i Locrian, che fin dall'inizio hanno portato avanti, attraverso oltretutto varie produzioni, varie etichette, un percorso sperimentale che attraversa moltissimi degli elementi che già nella prima parte abbiamo affrontato, dal post rock alla sperimentazione più rumorista per arrivare al noise, all'industrial, appunto all'ambient drone, fino anche al metal, al black metal e al metal drone. E proprio per quella loro versatilità e con la loro ricerca anche attraverso gli universi metal drone ci ha affascinato questo loro modo di procedere e il loro modo di affrontare questa materia sonora, partendo non in maniera appunto esplicita o chiara dal una formazione metallara o metallica, ma uscendo proprio da territori più legati all'avanguardia e alla sperimentazione tout court. Ce li andiamo a ascoltare. L'album che abbiamo selezionato insieme a un progetto che è invece proprio figlio dell'universo metal, cioè i Mammifer, che insieme appunto a una formazione sperimentale portano avanti questa vera e propria elaborazione, questa vera e propria ricerca, è quasi una sorta di sfida tra due formazioni che escono da universi molto differenti. Hanno fatto uscire appunto questo disco, Bless Them That Curse You, un lavoro veramente azzeccato. È molto bello anche questa commistione tra due appartenenze, due storie molto differenti, ma il risultato finale sicuramente molto ben realizzato. È uscito per la Profound Lore nel 2012, dunque piuttosto recente, uscito l'anno scorso, composto da tre tracce, dove appunto l'incontro di una formazione come Locrian, che sperimentano e che già da un po' portavano avanti una ricerca anche dentro il metal drone, ma non solo, incontrano proprio una formazione più legata all'ambito metallico, appunto un interscambio sicuramente interessante. Ce l'andiamo a sentire, dunque ricordiamo ancora il disco, Bless Van That Curse You, Locrian and Mammifer. Buon ascolto. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo questo splendido lavoro di Locrian e Mammifer, Bless Van Vet Cursiu, e continuiamo nel solco di Locrian, questa volta da un disco unicamente costruito dalla formazione, senza appunto una collaborazione, con un progetto più legato al mondo metallico, ed è un disco molto molto bello anche questo, un anno dopo, uscito nel 2011, The Clearing, e ci ascoltiamo anche questa traccia che dà un altro assaggio di un'altra dimensione connessa al metal drone, da una partenza, da un'ottica più legata al mondo della sperimentazione e dell'avanguardia. Dunque, formazione, quella dei Locrian, ricordiamo ancora, fondata a Chicago nel 2005, Andre Foisi e Terence Hannum, e ce ne andiamo a ascoltare appunto integralmente una traccia dallo splendido lavoro The Clearing del 2011. Buon ascolto. Thank you. Splendido veramente questo brano di Locrian, ricordiamo ancora l'album The Clearing 2011, splendido lavoro, e dai Locrian ci spostiamo a trovare un autore abbastanza recente, ha iniziato il suo percorso musicale addirittura nel 2006, dunque da pochissimi anni, si tratta di un giovane musicista e sperimentatore che si muove nel metal drone, nell'industrial, nella sperimentazione elettronica, anche rumorista. Si tratta di Author and Punisher, in realtà il suo nome reale Tristan Storr, ha fatto uscire fino adesso ben 4 album e abbiamo selezionato, uscito per la Earth and Crossbone, l'album Drone Machine, ed è veramente un lavoro dove l'aspetto sia possiamo dire analogico, comunque legato a strumentazioni elettriche, ma soprattutto il trattamento di questi strumenti attraverso un filtro elettronico, una manipolazione elettronica. E si muove questo album Drone Machines proprio appunto tra lo stoner rock, il metal drone, il doom metal, la musica ovviamente, la sperimentazione più avanzata elettronica, attraversando soprattutto un suono anche molto industriale. È un progetto sicuramente interessante, viene inserito dentro il discorso metal drone quasi alla nascita Author and Punisher, ma possiamo dire che forse può anche uscire da questa collocazione, perché altri brani, ad esempio di questo album, si muovono veramente quasi in un noise elettronico dove si percepiscono appena l'utilizzazione degli strumenti come la chitarra elettrica o il basso elettrico, che vengono completamente manipolati non soltanto in fase tra virgolette digitale o virtuale, ma anche proprio fisicamente con la strumentazione che viene collegata, segata, manipolata, lo strumento stesso proprio fisico, collegandolo appunto a questa vera e propria possiamo dire plurimacchina che lo stesso musicista utilizza anche nelle sue performance live, collegando appunto strumenti elettrici a questa console elettronica, questa manipolazione con effetti anche in alcuni casi analogici, ma connessi dentro un macchinario digitale che trasforma il tutto in qualcosa di sicuramente interessante. L'inizio è incalzante, con una chitarra che batte un accordo, lo chiude, lo riapre in una sequenza quasi cadenzata, che ricorda quasi una marcia militare, con chiari collegamenti alla dimensione più strettamente metal, ma si sviluppa sicuramente in maniera interessante. Ma soprattutto tutto l'album è molto variegato e ricco di coloriture molto differenti. Andiamoci a sentire dunque Author and Punisher, un'altra scheggia, un altro elemento nel tassello per appunto quasi completare un quadro, un piccolo quadro che possa raccogliere alcuni elementi appunto della scena metal drone. Author and Punisher, l'album è Drone Machines, uscito nel 2010, e chiaramente, come dico io, buon ascolto. Ebbene, siamo rientrati in diretta dopo questo interessante lavoro appunto di Author and Punisher, uno degli autori più recenti, insomma, con una storia musicale più recente. Nella stessa maniera concluderemo il nostro viaggio, questo primo viaggio che abbiamo cercato di strutturare, di lavorare con una certa logicità rispetto all'universo Metal Drone, che è ancora ricco di tanti altri progetti, di autori che si vanno a interfacciare, a incrociare rispetto a questo mondo, ma abbiamo provato a dare una prima, diciamo, dimensione musicale di questo fenomeno, di questi ultimi 12 anni, 13 anni, possiamo dire, anche se i primi lavori verso questa direzione, questo tipo di atmosfere, di sonorità, era già partito dalla fine degli anni 90. E chiudiamo con una formazione che è neozelandese, anche questa è definita già alla nascita come una progettualità dentro il metal drone, dunque non si parte da qualcos'altro, da una dimensione metal più diversificata e legata ai vari stili di quel mondo sonoro, ma in realtà appunto è una formazione definita già dall'inizio dentro questo universo. Infatti i primi lavori vengono sviluppati intorno al 2003-2004 con il Metal Drone che faceva i primi passi verso un allargamento anche dei confini geografici e di un aumento delle formazioni degli autori che cercano appunto di sperimentare dentro questo contesto. La formazione è Black Boned Angel e il disco che abbiamo selezionato per chiudere questa trasmissione legata appunto al mondo Metal Drone è Verdun, uscito per la Riot Season nel 2009. Un disco molto interessante, anche se questa parola stasera credo di averla detta una ventina di volte, ma purtroppo le ripetizioni su alcuni termini a seconda poi delle trasmissioni cambiano e continuano a persistere durante la puntata. Verdum è un disco particolare perché è sviluppato intanto su un'unica traccia di un'ora circa, ma è sviluppato con delle variazioni e un vero e proprio percorso concettuale molto avanzato, che dimostra anche la solidità della formazione e la ricerca di questa formazione neozelandese. Chiudiamo con un frammento chiaramente di questa lunga sessione sonora e ovviamente vi ricordo sempre il nostro blog, noblog, che è 451frammentisonori.noblogs.org, e chiaramente la domenica prossima saremo presenti quasi sicuramente entrambi i conduttori per la domenica 30 giugno, e intanto vi lascio con questo brano finale di Black Boned Angel e ovviamente vi auguro una buona nottata e a risentirci per la prossima settimana. Buon ascolto con l'ultimo lavoro del percorso di stasera, Schegge di Metal Drone.